Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Si apre la settimana numero 18 di Eclettica, è la numero 18 della stagione numero 14 sulle frequenze di Rock FM. E Giulio Caperdoni ad accogliervi come tutti i giorni fra le 19 e le 20, in una settimana in cui riprenderemo il film che abbiamo iniziato ad ascoltare venerdì di settimana scorsa, in cui sentiremo le parole non di uno scrittore in senso stretto, ma di una grande, grande, grande penna. Quindi avete capito che, come capita di tanto in tanto, ci ascolteremo le parole di un musicista. E poi, per quanto riguarda la musica, è una settimana che vede tante novità italiane, ma soprattutto tante novità italiane di qualità. Vedrò di spalmarle un po' su tutti i giorni di questa settimana. Susanna ti accompagna al suo posto vicino al fiume. Puoi sentire le barche passare, puoi spendere la notte al suo fianco. Sai che lei è mezza pazza, ma per questo vuoi stare là. E ti nutre con tè ed arance che provengono dalla Cina. E appena hai intenzione di dirle che non hai amore da offrirle, lei ti porta sulla sua stessa lunghezza d'onda e lascia al fiume rispondere che sei sempre stato il suo amante. E tu vuoi viaggiare con lei, vuoi viaggiare ciecamente, sai che si fiderà di te, perché gli hai toccato il suo corpo perfetto con la mente. Gesù fu un marinaio allorché camminò sull'acqua e spese molto tempo guardando dalla sua isolata torre di legno. E quando seppe con certezza che solo gli affogati potevano vederlo, disse: «Tutti gli uomini saranno marinai fino a che il mare li libererà». Ma egli stesso fu domato molto prima che il cielo si aprisse, abbandonato, quasi umano, affondò sotto il tuo giudizio come una pietra. E tu vuoi viaggiare con lui, vuoi viaggiare ciecamente, pensi che potresti credergli, perché hai toccato il suo corpo perfetto con la mente. Ora Susanna ti prende la mano e ti conduce al fiume. Lei veste stracci e piume provenienti dalle casse della Salvation Army, ed il sole cola come miele sulla Nostra Signora del Porto, e lei ti mostra dove guardare tra la spazzatura e i fiori. Ci sono eroi tra le alghe marine. Ci sono bambini nella mattina, stanno sporgendosi all'amore e si affacceranno su questa via per sempre mentre Susanna tiene lo specchio. E tu vuoi viaggiare con lei e vuoi viaggiare ciecamente e sai che puoi crederle perché le hai toccato il tuo corpo perfetto con la mente. Questa era Suzanne di Leonard Cohen. Oh,

Viaggiatrice, stai un attimo finché la notte è finita. Io sono solo una stazione sulla tua strada. Io so che non sono il tuo amante. Io vivevo con una bambina di neve quando ero un soldato e sconfissi ogni uomo per lei finché la notte diventò più fredda. Lei portava i suoi capelli come te, ad eccezione di quando stava dormendo, e poi lo disegnò su un telaio di fumo, oro e respiri. Perché sei così calma ora, stando sull'uscio? Hai scelto il tuo tragitto tempo fa. Tu venivi su questa autostrada. Viaggiatrice, fermati un momento finché la notte è finita. Io sono solo una stazione sulla tua strada. Lo so che non sono il tuo amante. Questa era Winter Lady di Leonard Cohen. Thank you. Sì? Mi scusi, sono Mark Daly, un amico di Carlo. Ah, ma si accomodi, caro Mark. Io la conosco di nome, sa? Carlo mi parla così spesso di lei. È ingegnere, no? No, io sono pianista e insegno al conservatorio. Pianista? Si accomodi, prego. Che cosa posso offrirle? Un caffè? Un liquorino? No, niente, grazie. Sono salito solo un momento per vedere Carlo. Non c'era al Blue Bar e allora ho pensato che fosse... Abbiamo detto un liquorino, eh? Le va bene questo? Oh. E Coca-Cola. Ora vado di là e le faccio un caffè subito. No, la prego. Grazie, non si disturbi. Vorrei solo vedere Carlo. Allora glielo chiamo. Carlo? Carlo? Oh, come sono distratta. Mi perdona. Carlo non c'è, è uscito e è andato via.